Il cinema Radio Onda Rossa, Visionari, tutti i giovedì dalle 14 alle 15, giovedì 26 novembre del 2015. Tutte le informazioni sulla scaletta di oggi e sulla trasmissione le trovate sul sito internet della Radio Onda Rossa.info, la voce trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. L'indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info. Ci ascoltate in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming sull'home page del sito della Radio, cioè ascolta la diretta. Eccoci con Nadia Pizzuti, regista del documentario Lina Mangiacapri, artista del femminismo, che sarà proiettato domani venerdì 26 novembre alla Casa Internazionale delle Donne qui a Roma. Nadia, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie. In realtà la proiezione è oggi, eh? È oggi, è vero, 26 novembre, è oggi 26 novembre. Allora, cominciamo dall'idea di questo lavoro, Nadia. Come nasce? Allora, questo lavoro nasce da un interesse per la figura di Lina Mangiacapri. Diciamo che era già un po' nell'aria, c'erano delle giovani ricercatrici napoletane che cominciavano a pensarci. Poi ho fatto un altro documentario su una filosofa napoletana, Angela Putino, che già in cui avevo trovato dei riferimenti. Quindi insomma era una figura, una persona che avevo incrociato negli anni, però che non conoscevo veramente, e quindi ho cominciato a appassionarmi, no, a questa figura. Ho cominciato a fare una ricerca, a cercare i materiali, soprattutto attraverso la sorella, e perché mi sembrava interessante fare un documentario su una figura scomoda, no, anche del femminismo, non solo per, diciamo, ricordare, no, questa persona e comunque divulgare, no, una conoscenza che magari era un po' scarsa, ma proprio perché lei era un pochettino, non dico emarginata, ma insomma era anche molto controversa all'interno del femminismo. Per quali caratteristiche dici rispetto a questa sua figura? Guarda, perché lei lavorava molto sull'arte e la creatività come forma di lotta politica e quindi come strumento di liberazione, no, delle donne, che era nel femminismo italiano degli anni 70 era abbastanza rara, no? Questo assioma, che lei, questo lavoro, diciamo che era sempre stato un femminismo, quello italiano, abbastanza teorico, filosofico, no? Lei invece ci metteva il corpo perché faceva un lavoro, e poi non solo, metteva il proprio corpo, quello del gruppo che aveva creato, che si chiamava, esiste tuttora, che si chiama Le Demenziache, e si metteva proprio in gioco lei. Poi oltretutto faceva un lavoro molto originale per l'epoca sull'androginia, su quello che oggi si chiama queer, no? Sì, quindi sì, lei sì. Ha anticipato, perlomeno in Italia negli anni 70, la queer theory, no? Perché lavorava proprio sul discorso della fluidità dei generi. Lei non si definiva seguendo le categorie di genere, no? Lei non si definiva donna, si definiva in realtà un androgino. Poi naturalmente diciamo che il principio femminile lo hai perso, non era un discorso neutro, no, quello che faceva, perché c'era comunque il lavoro sul mito, che in qualche modo voleva tornare alle radici, no? Per non farla troppo lunga, insomma, il grosso lavoro che ha fatto è stato sia nel teatro che nel cinema, nell'arte, perché lei dipingeva, scriveva, ha scritto molte poesie, era sempre centrato su questo discorso arte e creatività come strumento di lotta politica. Mm-hmm. e quindi il corpo, perché nel cinema appunto il corpo c'è sempre. Lei diceva poi il cinema le interessava come sintesi, no, di tutte le arti, e quindi le interessava non solo per fare film lei come cineasta, ma ha promosso il primo festival del cinema delle donne negli anni 70, il primo festival in Europa. Mm-hmm. Quindi anche come promozione del cinema delle donne. Senti Nadia, il tuo lavoro nasce anche da una campagna di crowdfunding. Sì, infatti un altro elemento importante di questo progetto è quello che del resto mi ha consentito di realizzarlo, proprio crowdfunding, perché proprio perché io volevo fare un discorso anche sulla memoria, ho creato una specie di comunità di interesse, no, come si deve fare del resto per fare un crowdfunding. Quindi ho montato un promo di pochi minuti, l'ho portato in giro per raccogliere fondi. Quindi crowdfunding mi ha consentito comunque di finanziare quasi tutto il film, no? Perché ho raccolto 7.000 euro che sono quasi tutto il finanziamento del film. Mm-hmm. E quindi è stato molto importante perché ho visto l'interesse che poteva suscitare una figura come quella di Nina Mangiacapre anche tra i giovani che non la conoscevano, perché lei è morta nel 2002. È stata molto attiva da fine anni 70, anni 80 e ovviamente una parte degli anni 90, però molti giovani non la conoscevano neanche a Napoli, per cui questo lavoro qua di raccogliere soldi è stato fondamentale anche proprio per creare un pubblico per il film, non è solo per raccogliere soldi, sì, no? Sì, sì, sì. E quindi siccome era un gruppo anche molto radicato nel territorio, no? Napoletano, questo è un altro elemento molto interessante, facevano molte azioni politiche e artistiche sul territorio, quindi non so, quando c'è stato il terremoto dell'81 hanno fatto una serie di azioni, hanno fatto negli anni 70 quando si parlava molto dell'antipsichiatria, no? Quando c'era Basaglia, sì, che, sì, che voleva aprire i manicomi, loro sono andate al manicomio di Napoli che si chiama il Friulone e hanno fatto delle azioni, no? Con le psichiatrizzate. Sì. Poi hanno lavorato sempre molto sull'inquinamento, no, ambientale, quindi era molto molto corporeo, no, il lavoro che, sì, facevano. Sì. Senti Nadia, due cose in chiusura. La prima, dove è fruibile il lavoro realizzato da Lina Mangiacapre, e poi se ci sono in rete dei riferimenti per il tuo documentario, per saperne di più. Ma guarda, c'è il gruppo Le Nemesie, che in particolare la sorella di Lina Mangiacapre, che ha creato un archivio, però non è che sia consultabile, che okay, forse chiamando, ecco, però c'è un sito che è linamangiacapre.it, mi, sì, sembra comunque facile trovarlo su internet, dove ci sono tutta una serie di informazioni su di lei, compresi anche dei contatti, no? E per quanto riguarda il mio documentario, beh, per ora l'ho mostrato già una volta a Scampia, nella periferia di Napoli, perché c'è un cineforum molto interessante lì, lo mostrerò quindi oggi alla Casa delle Donne, poi di nuovo a Napoli, però nell'ambito di una rassegna che si chiama Astra Doc, quindi il 4 dicembre al cinema Astra. E poi vabbè, pian piano, adesso è da poco che è pronto, quindi lo porterò a Milano, a Genova, a Parigi, e solo naturalmente per ora non si può visionare online, ma insomma presto poi lo liberalizzerò in modo che tutti lo possano vedere. Bene. Allora Nadia, io ti ringrazio, ricordiamo l'appuntamento oggi alla Casa Internazionale delle Donne qui a Roma, l'orario? Alle 18. Un abbraccio e a risentirci presto. Anche a voi, grazie. Ciao. Grazie a tutti, ciao. Nadia Pizzuti, regista del documentario Lina Mangiacapre, artista del femminismo. Eccoci con Paolo Gaudio, regista del film Fantasticherie di un passeggiatore solitario, in uscita in sala oggi, giovedì 26 novembre. Benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa, Paolo. Grazie, bentrovati, grazie dell'invito. Allora, un fantasy italiano, in che termini? Raccontaci un po' di questa avventura, Paolo. Ma la Fantasticherie è un, come dicevi tu giustamente, un fantasy, ma che in qualche modo tradisce quasi subito il genere a cui sì, come dire, si indirizza. È un film anarchico realizzato in tecnica mista, parte in stop motion e parte in live action, ed è una sorta di fiaba sul fallimento, sul senso di colpa, sull'incompiutezza. È un film che prova a mettere al centro la fantasia, ad utilizzarla come una grande lente attraverso la quale osservare l'animo umano e raccontarlo. Mm-hmm. Come nasce il progetto? Ah, il progetto nasce un po', insomma, da lontano, nel senso che quando io ero uno studente all'Università della Calabria, insieme ad alcuni amici avevamo una sorta di grande passione per i libri incompiuti, mm-hmm, poiché, come dire, ci affascinava molto l'idea di possibilità di libero arbitrio all'interno della creatività. E non c'è nulla, credo, come un libro incompiuto per testimoniare ciò. In qualche modo la vita dell'autore si è messo di mezzo e ha bloccato in un certo senso questa sua creatività. Mm. E questo mi affascinava, mi ha sempre affascinato, mi ha sempre colpito, e l'ho trovata come l'inizio di una grande avventura fantastica in qualche modo. C'è uno scrittore che deve combattere contro le sue ossessioni, i suoi fantasmi, contro la, la sua vita stessa, per poter scrivere un libro. In più, diciamo così, il, l'incompiuto come testo in qualche modo mette inevitabilmente in contatto la vita di chi lo sta leggendo con la vita di chi l'ha scritto. Almeno a me capitava spesso di maneggiare questi, questi libri e di riflettere su, sul perché fossero incompiuti, e quindi in un certo senso mi rifacevo alla biografia dell'autore. Uno degli elementi qualificanti del tuo film è la presenza delle animazioni in plastilina di Lorenzo Terranera, che per chi non lo conoscesse è l'autore dei, dei fondali, dei disegni del, di una trasmissione come Ballarò. Sì, Lorenzo è uno che ha collaborato a queste animazioni, a questa parte animata, insieme a Gianluca Maruotti, sì, che è l'animatore con cui io collaboro abitualmente. È stato un lavoro che è iniziato tanto tempo fa, all'incirca a cavallo tra il 2010 e il 2011. È stato un lavoro che ci ha tenuto, come dire, fianco a fianco per quasi un anno, diciamo così, e io ne sono più che soddisfatto, insomma. È una delle parti di fantasticheria che amo di più e che in qualche modo mi sento più vicina a me, insomma, mi riconosce, mi rappresenta maggiormente. Senti Paolo, a tuo modo di vedere, qual è il pubblico a cui indirizzi questo tipo di lavoro? Ma in realtà chiunque è curioso, chiunque ha voglia di sentire una storia, come dire, non così allineata con il nostro cinema, chiunque ha voglia di osservare la realtà, quindi l'intera realtà, le cose belle, le cose brutte, attraverso, diciamo così, la fantasia e attraverso gli occhi magari di un bambino, e chiunque abbia voglia di rimettersi in contatto con la propria infanzia, che non sempre questo significa vedere qualcosa di rassicurante. Sì. Insomma, la fantasia alle volte viene rappresentata come qualcosa, come dire, che di innocuo, diciamo così. In realtà io credo che la fantasia abbia, gioca un ruolo centrale per raccontare l'animo umano, quindi le parti, anche le pieghe anche più difficili da raggiungere, quelle magari più oscure. Quindi chiunque abbia voglia di vedere qualcosa di differente, qualcosa che, come dire, prova a intrattenere ma allo stesso tempo anche a far riflettere, e chiunque, come dire, si riconosca in uno spettatore non passivo, cioè che ha voglia di, come dire, far funzionare tutti i suoi sensi mentre è seduto in sala, ecco, questo è il pubblico giusto per fantasticherie. Senti, una curiosità, quali sono stati e quali sono i tuoi riferimenti visivi, cinematografici, culturali che ti hanno portato a questo film? Ma sono diversi, sicuramente i film che vedevo da bambino mi hanno terribilmente condizionato, insomma, il cinema ha stravolto la mia vita, soprattutto il cinema fantastico, quello che ti ripeto vedevo in televisione il lunedì sera o la domenica pomeriggio a casa di mia nonna, quindi film magari con gli effetti speciali di Harryhausen, oppure, diciamo così, tutta quella Hollywood che in qualche modo ha trattato la fantasia e l'avventura, quindi mi riferisco a Burton, a Gilliam, a Bob Zemeckis, a John Carpenter, a Joe Dante, moltissime cose di Richard Donner, è un elenco molto lungo, ma in qualche modo in un certo senso quelli che lavoravano negli anni Ottanta subito dopo la New Hollywood. Sì. Quello è in qualche modo il cinema che io ho come riferimento, una sorta di stella cometa che provo a seguire alla ricerca poi di una mia espressione magari personale, propria. Paolo, da oggi nelle sale che modalità distributive avete scelto? Ma come tutti, diciamo così, film piccolini, indipendenti e anche un po', diciamo così, come dicevo prima, non proprio allineati, avrà una distribuzione, diciamo così, che prevede una lunga circuitazione. Cioè noi non abbiamo la, come dire, la forza distributiva di altre pellicole che magari scelgono un giorno e riescono ad uscire in tutti gli schermi d'Italia. Noi in un certo senso partiamo piano piano, partiamo da, in questo momento dovremmo essere in 3 regioni, a Roma siamo al Cinema Ciak, quindi invito, diciamo così, tutti quelli che hanno desiderio di vedere Fantasticherie di non attendere e di andare al più presto, proprio perché, diciamo così, la tenuta in sala dipende anche da, come dire, dalla presenza degli spettatori. E poiché la forza, diciamo così, di questo film, la forza distributiva, intendo dire, per un sistema che magari è molto più complesso di quanto io non possa spiegare in questo momento, non è proprio quella di Spectre o di Hunger Games, quindi chiunque abbia la voglia di vederlo, di non attendere, di andare oggi, domani o insomma al più presto possibile. Bene, allora Paolo, io ti ringrazio, un abbraccio, un in bocca al lupo. Grazie Federico, mi è stato veramente un piacere, ringrazio i tuoi ascoltatori, se verranno a vedere il film. Speriamo a presto, dai, ciao Paolo. Grazie, ciao. Ciao. Paolo Gaudio, regista del film Fantasticherie di un passeggiatore solitario, in uscita in sala oggi giovedì 26 novembre. Gianni Zanasi, regista del film La felicità è un sistema complesso, in uscita in sala oggi giovedì 26 novembre. Ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa, Gianni. Ciao. Ci eravamo sentiti per il tuo film precedente, è passato un po' di tempo da Non pensarci. Cos'è questa nuova avventura, Gianni? Cos'è questo film? Dunque, cos'è? Diciamo, ho fatto un po' fatica a trovarlo, ecco, ho cercato molto, poi alla fine sono riuscito in un qualche modo a catturarlo. E avevo, insomma, in questi anni ho comunque lavorato molto, anche se non sembra, ma ho scritto un film che purtroppo non mi piaceva, per cui non l'ho. Ho scritto un altro film che non era piaciuto a nessuno, e quindi non mi rimaneva altro che scriverne un altro. E alla fine ho catturato più o meno questo animale strano, che è questo, la felicità è un sistema complesso, di cui per me forse il tema sotterraneo che mi stava più a cuore, ho filtrato più da un punto di vista sentimentale che soltanto mentale, intellettuale, è un po' il tema del cambiamento, cioè della necessità e dell'ambiguità del cambiare. Sì. Senti, per questo hai creato anche una figura professionale piuttosto anomala, che è il protagonista impersonato da Valerio Mastandrea. Sì, è abbastanza anomala, lo ammetto. È effettivamente un lavoro che non so se esiste, diciamo che ho sperato dentro di me che esistesse, però non volevo stare lì ad aspettare di verificare che esistesse, perché ho detto ok, facciamo che esiste. Esatto, facciamo che esiste. Ed è dunque una persona che la sua specialità inquietante, ed è precisa, è inquietante veramente come quella di un killer, diciamo, è quella di avvicinare dei dirigenti, di persone che sono in situazioni di potere, anche di grande potere, che però hanno ereditato in un qualche modo questo potere, non se lo sono guadagnati attraverso, diciamo, una conoscenza e una maturazione, diciamo, da un punto di vista meritocratico, diciamo così. Lo ereditano da un meccanismo un po' incastrato, ecco, che non produce più cambiamenti ma ripetizioni, e li avvicina, e anche perché per lui la loro grossa colpa, oltre a un'incapacità, un'impreparazione di fondo, è soprattutto il fatto di non porsi un senso di responsabilità verso gli altri nell'uso del loro potere, e quindi in sostanza sono persone che poi manderanno a deraglio le aziende anche grandi che gestiscono, e quindi questa sarà una conseguenza ricaduta per tante persone che perderanno il lavoro. Il nostro eroe, una specie di versione psicotica di Chiara, diciamo così, decide che bisogna colpire lì per evitare il disastro che emanerebbe, che comporterebbe, che distruggerebbe la vita di tante persone. Un limitatore di danni. Un tagliatore. Un tagliatore di danni. Quindi li convince in un qualche modo ad andarsene prima che distruggano tutto. Senti Gianni, il titolo La felicità è un sistema complesso, come ti è venuto? Mi è venuto in realtà scrivendo la prima scena, che è l'unica che non è stata girata. E, era praticamente ambientata in un profondo nord, c'era un deserto di neve dove c'era soltanto un edificio dove si svolgeva un seminario di filosofia internazionale, dove accorrevano in particolare giovani da tutta Europa, e la star era questo filosofo anziano, addirittura di origine polacca, ma che era diventato un culto per il suo libro, che era appunto intitolato La felicità è un sistema complesso, in cui in due parole sostiene che oggi ancora più di ieri, forse proprio perché siamo tutti così interconnessi da ogni punto di vista economico, culturale e tecnologico, è veramente forse oggi più che mai impossibile essere felici da soli, per cui è una concatenazione di cose, siamo incastrati in una collettività che interagisce tra di sé, e quindi la felicità è un sistema complesso, ecco, cioè c'è da un punto di vista diciamo individuale e personale, ma che è collegato per forza di cose anche in una dimensione collettiva sociale. Gianni, cose grosse come cose... Gianni, hai confermato il tuo connubio artistico con Valerio Mastandrea? Sì, io faccio di tutto per evitarlo, ma poi, capito, è difficile. È lì, No, perché era un personaggio che si porta dentro veramente molte contraddizioni, molto forti, sì. Porta dell'innocenza, del cinismo, porta qualcosa di serio, qualcosa di completamente ironico, insomma, sapevo e sono stato confermato dai fatti che Valerio con la sua capacità di sfumature avrebbe giocato veramente con una bella grandezza con questi tasti. Senti, in fase di scrittura venivi, insomma, dicevi da un paio di esperienze fallimentari rispetto a progetti di film, ecco, come hai lavorato qui sulla scrittura, sulla creazione dei personaggi e della vicenda? Sì. Sì, visto che muoveva dei temi che sentivo molto potenti, molto forti, e che appunto tutti tornavano come una calamita, attirati da questo senso del cambiare, sì. Quanto è difficile farlo e quanto è anche ambiguo a produrre dei risultati anche inaspettatamente, sia positivi che negativi. E sentivo quindi che dovevo il più possibile cercare un senso di verità sui personaggi, ma allo stesso tempo senza negarmi la possibilità di giocare, perché se non giochi non succede niente per me, insomma viene soltanto ribadito il tema, ok, sì. Vabbè, però andare al cinema per vedere un tema, può essere anche un tema nobile, no, non ci riesco, ho bisogno di giocare, e anche come spettatore ho bisogno di entrare in un gioco che mi sorprenda, per cui ho lavorato molto molto molto sui personaggi, e scrivendo anche veramente raggiungendo dei limiti di salute mentale e di però l'importante, capito, era raggiungere il fuoco dei personaggi. Poi dopo cambi, modifiche, io questo lo faccio spesso, perché poi nonostante abbia passato tanto tempo a scrivere, ogni giorno prima di girare, per quanto questo creava un po' di disagio, soprattutto in Valerio, esprimeva il suo disagio in modo molto laico, diciamo, riscrivevo ogni giorno la scena che dovevamo girare. Ah, perfetto. Senti Gianni, e nel tuo cinema la musica, come ci dicevamo poco fa al telefono, ha un peso determinante? Sì, tutto molto collegato, è stato un fatto istintivo, per me la musica non mi piace quando viene usata per sottolineare, Mi sembra che sia un modo pedante di rivolgersi allo spettatore. La scena è triste, ti metto sotto una musica triste. Beh, lo spettatore è in sé ed è, e lo è. Dice, un attimo, avevo già capito. Quindi in realtà per me la musica è un modo di divento un attore del film e interpreta qualcosa che sta nell'intimità nascosta della scena, per cui può produrre anche dei cortocircuiti inaspettati. Ci può essere appunto magari una musica lieve, molto, molto lieve, su una situazione invece pesantissima, o viceversa, capisci? È tutto più imprevedibile, allora segue una strada molto molto più intuitiva e non soltanto logica, però mi attrae molto perché è anche un modo per deragliare l'attenzione, cioè spostarla non solo sul piano logico ma sul piano emozionale, sensuale. Tra l'altro mi hai fatto ad apertura di film mi hai fatto ritornare alla memoria Plastic Bertrand. È stata un'esperienza, ha detto, oddio, che ha tirato fuori. È stato bello. Immagino traumatica. No, è stato bello, è stato bello. Senti Gianni, da oggi nelle sale in quante copie? Credo un po' più di 100, 110. Un bel numero. Sì, buono. Allora, un in bocca al lupo, ci sentiremo presto, come ti dicevo, per parlare proprio delle musiche dei tuoi film. Un abbraccio e a molto presto. Volentieri. Ciao Gianni. Buon lavoro. Ciao, grazie, ciao. Gianni Zanasi, regista del film La felicità è un sistema complesso, in sala da oggi, giovedì 26 novembre. In collegamento con Andrea Romeo di I Wonder Pictures sulla distribuzione del film Dio esiste e vive a Bruxelles, in uscita in sala oggi giovedì 26 novembre, con un titolo così era ovvio parlarne, Andrea. Beh, insomma, guarda, siamo molto contenti e molto eccitati oggi per l'uscita di questo film, la prepariamo da tanti mesi. Senti, allora, per chi ci ascolta, raccontiamo, diamo degli elementi di trama brevemente, Andrea. No, di trama no, non bisogna svelare niente, non spoileriamo. Si tratta di un film di Jacob van Dorm, lo abbiamo amato tanti anni fa per Totò l'eroe e torna alla grandissima. Qualcuno non si è fatto sfuggire anche su Mr. Nobody, un vero e proprio culto di qualche anno fa, ma questa volta il protagonista è Dio, niente proprio di meno che Dio, anzi la figlia di Dio, che arrabbiata per le angherie che l'altissimo immaginato da Van Dorma come abbastanza cattivello, le angherie con cui tortura, diciamo, gli esseri umani, la figlia decide di vendicarci e di liberarci, e quindi invia a tutti gli abitanti della terra la propria data di morte attraverso un SMS sul cellulare. Da qui ovviamente parte una vera e propria rivoluzione contro lo strapotere dell'altissimo, in un film commedia comicissimo e anche cinematograficamente molto visionario. Proprio oggi Alberto Crespi sull'Unità ne ha parlato come di una sceneggiatura alla Charlie Kaufman. Registicamente Van Dormael è un tripudio per gli occhi, e poi in questi giorni abbiamo avuto il piacere di goderci la presenza in Italia del protagonista Benoît Poelvoorde, che è veramente un titano di comicità e di divertimento, una figura veramente travolgente. Senti, allora, la scoperta è che Dio non ha un solo figlio, Dio non è buono, ma la cosa folgorante, l'elemento folgorante di quest'idea, di questo film, è la consapevolezza della finitezza della vita, che fa scattare poi una corsa verso la ricerca della propria felicità e anche, no? Mi sembra... Ma sì, in qualche modo Jacot è sempre lì, è sempre a dirci cerca di vivere come uno dei protagonisti, no? Di cui racconta, dice, faceva una vita di merda e dava le sue ore a Nolo per soldi. E in qualche modo Jacot poi è molto nero e molto sarcastico proprio rispetto al fatto che ognuno poi costruisce le sue mediazioni, ha le sue tristezze e sposta magari la responsabilità su un dio, ognuno quello che preferisce, o agisce in nome di un dio, ma in realtà sono i suoi stress, le sue diciamo difficoltà di stare al mondo che poi sposta fuori di sé. In questo è anche molto ottimista. In realtà è un film da cui tutti gli spettatori escono con un gran bel sorriso, perché ti riconcilia anche con la necessità di queste risate di rispetto alla anche alla difficoltà di vivere, diciamolo. Sì. Senti Andrea, Van Dormael l'avevamo conosciuto e amato per L'ottavo giorno. In questi anni ha mantenuto una sua idea di poetica, di estetica e di stile. Ma sì, in realtà per me poi lui resta sempre, forse questo è il suo film, anzi sicuramente il suo film più maturo, sì. Ma Totò Leroux lo aveva reso veramente, era stato l'enfant prodige del cinema europeo ormai più di 20 anni fa. Adesso di anni ne ha 58, ha una grande sapienza, le citazioni si sprecano da Kubrick a un cinema molto alto registicamente, ma in realtà molto divertente, con una sceneggiatura come alla Billy Wilder, risate ritmiche e gag continue, con un'idea di cinema di qualità che al contempo vuole parlare a tutti. Lo ha scritto qualcuno oggi, un film per tutti. Addirittura oggi sono usciti da Repubblica, che gli dedica l'apertura, a Libero. Pensavo che avrebbe titolato Bastardi surrealisti, invece no, è assolutamente una recensione positiva di Carbone, e in qualche modo mi sembra che sia un film che appunto da Crespi dell'Unità a tantissimi altri giornalisti hanno festeggiato e critici hanno festeggiato anche come un bel respiro in questo momento di storie difficili, di storie faticose e di film magari anche belli, ma sempre tutti molto molto molto faticosi. Ecco, abbiamo festeggiato questo Van Dormael come un gesto di leggerezza oltre che di qualità. Sì. Andrea, da oggi nelle sale come uscirà? Uscirà bene, devo dire. Siamo molto contenti, è stato riconosciuto, apprezzato e voluto e molto desiderato in tante città, a Roma al cinema Mignon, Eden, Greenwich e negli UCI, e in 70 sale in tutta Italia. Una buona uscita. Devo dire che siamo molto contenti ed è un segnale appunto proprio legato anche al fatto che quando un film oltre alla qualità parla a un pubblico e lo sa fare in maniera non elitaria, è bello, c'è una bella accoglienza. Sì. Bene Andrea, è stato un piacere come sempre, ci sentiamo per le prossime novità, un abbraccio. A presto, buone visioni. Ciao. Andrea Romeo di I Wonder Pictures sulla distribuzione del film Dio esiste e vive a Bruxelles, in uscita in sala oggi giovedì 26 novembre. Questo è Visionari su Radio Onda Rossa, il cinema tutti i giovedì dalle 14 alle 15, le informazioni sul sito internet della radio ondarossa.info, alla voce trasmissioni Visionari sulla pagina Facebook di Visionari. Silvia Pellegrino di Kitchen Film per parlarci del progetto Registi di Classe. Silvia, benvenuta a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie Federico, buon pomeriggio. Dunque sì, il videoconcorso Registi di Classe nasce dalla collaborazione tra Kitchen Film e la Scuola di Cinema Sentieri Selvaggi, ed è patrocinato da Agiscuola e si rivolge agli studenti delle scuole primarie e secondarie, ispirandosi al docufilm Scuola di Babele della regista francese Julie Bertuccelli, che è uscita ad aprile di quest'anno. E partendo proprio dall'esempio di questo documentario, che mostra un intero anno scolastico passato tra i banchi della classe d'accoglienza per studenti stranieri all'Istituto Grand Jobel di Parigi, dove appunto troviamo dei ragazzi tra gli 11 e i 15 anni arrivati un po' da tutto il mondo, dalla Libia, dalla Cina, dal Marocco, c'è chi scappa dalle persecuzioni, chi insegue un sogno, insomma chi lascia la sua terra per crescere e conquistare la propria libertà, e riescono a percepire, ovviamente superando molte difficoltà, la scuola come luogo sicuro. E in Italia, lì dove la legislazione deve ancora intervenire in maniera sostanziale sul tema dell'integrazione scolastica degli alunni, soprattutto con cittadinanza non italiana e nello specifico delle seconde generazioni, l'istituzione scolastica dovrebbe un po' mettere a disposizione i suoi strumenti per agevolare l'integrazione, lo scambio reciproco, il multiculturalismo nelle classi. Tra questi preziosi strumenti, chiaramente la didattica ha un ruolo primario, come appunto dimostra il documentario, attraverso gli insegnamenti del personaggio della professoressa Cervoni, che in realtà non è quasi mai inquadrata nel documentario, però al di là di ogni retorica, pretendendo comunque il massimo dei suoi studenti, si mette a disposizione per ascoltarli, guidarli in questo percorso che poi li porterà appunto all'inserimento della classe normale. E come dicevo, grazie a questi esempi il concorso vuole stimolare gli studenti a confrontarsi con i compagni sui concetti di integrazione culturale, di identità, di appartenenza nella scuola della società multiculturale, attraverso la realizzazione di un breve video della durata massima di 3 minuti, anche con un semplice smartphone. E ci auguriamo che, grazie a tale confronto stimolato dal progetto creativo, si riesca a trasformare il concetto di diversità culturale da pregiudizio a valore intrinseco. E tra l'altro il vincitore, che verrà decretato da una giuria popolare attraverso un sistema di votazione online, potrà partecipare all'esclusivo workshop Fare Cinema, che è promosso dalla Scuola di Cinema Sentieri Selvaggi, che si trova a Roma, ed è utile a conoscere, diciamo, tutti i segreti celati dietro alla realizzazione di un film. Quindi è una full immersion proprio per fare il punto su quelli che sono i linguaggi di base del cinematografico, del televisivo e del web. E il concorso è consultabile sul sito www.kitchenfilm.it, kitchen appunto come cucina in inglese, e ci sono molti partner che ci sostengono in questo progetto, tra cui Docenti Senza Frontiere, la FADIS, la Federazione Associazioni di Docenti per l'Integrazione Scolastica, e la Piam Onlus, che è un'associazione laica composta da operatori sociali italiani migranti, e da The Bow News, che è un giornale nato 4 anni fa con lo scopo di dare voce non al potere, ma a chi lotta appunto per i propri diritti. Senti Silvia, i tempi per partecipare? Allora, il concorso è partito il 16 novembre e si concluderà il 31 gennaio 2016. Sì, e poi quando si avranno i frutti, quando sarà tutto fruibile? Direttamente online sul sito, una volta appunto raggiunta la votazione, si vedrà, si vincerà direttamente dal sito il vincitore, perché appunto c'è un sistema di votazione online, per cui i ragazzi si dovranno sponsorizzare e farsi votare, e poi si comunicherà tramite mail o telefonicamente il vincitore. Bene Silvia, mi sembra che tu ci hai dato tutti gli elementi, è stato un quadro esaustivo. A questo punto un in bocca al lupo e a risentirci presto. Crepi, sia prestissimo, grazie Federico, buon pomeriggio. Ciao anche a te, ciao Silvia. Silvia Pellegrino di Kitchen Film sul progetto Registi di Classe. Ritroviamo come ogni anno Alberto Lastrucci, direttore della 56esima edizione del Festival dei Popoli a Firenze da domani 27 novembre fino al 4 dicembre. Alberto, ben ritrovato a Visionari su Radio Nessa. Grazie a voi. Ogni anno si aggiunge un numero, sembra facile, ma invece ci vuole tanto tempo, tanto lavoro. Ma siamo pronti, ormai diciamo il parto si sta per io chiamo realizzare un festival, fare un bambino, partorirlo, quindi a un certo punto si ha desiderio di incontrare il pubblico perché spetta a loro poi giudicare, no? È uno dei festival, tra l'altro, storici di questo paese e più prestigiosi, Alberto. Sì, davvero, è così, è una lunga storia, il Festival dei Popoli ha ospitato documentari da tutto il mondo fin dalle proprie origini, la prima edizione fu nel 1959 e posso dire con un orgoglio che condivido con chi mi ha preceduto ovviamente che tutti i grandi maestri cinema documentario hanno presentato le loro opere sui nostri schermi. Alberto, com'è strutturata l'edizione quest'anno? Come consuetudine ci sarà un concorso internazionale con 21 opere inedite in Italia che saranno giudicate da una giuria internazionale e anche dal pubblico, premio sempre molto gradito quello che viene assegnato dal nostro pubblico, una sezione panorama italiano che si compone di 8 film, tutti in anteprima assoluta. Il nostro tentativo è quello di far vedere il buon cinema italiano, i documentari italiani sono assolutamente di prima qualità, vi manca l'incoraggiamento per non solo incontrare il pubblico nel nostro paese, ma anche di affrontare un viaggio un po' più lungo e andare a incontrare il pubblico europeo, che è quello che ci proponiamo di fare. Alberto, più o meno da quanti paesi e quante sono le opere che presentate? Le opere sono 100. 100. Okay. Diciamo che sono rappresentati tutti i grandi paesi produttori di cinema, ma per quanto riguarda le ambientazioni dei singoli film possiamo dire che è un viaggio intorno al mondo, si vedano dalla Siberia sommersa nella neve al caldo tropicale dell'Africa eccetera, ci sono veramente tutte le latitudini del mondo, tutte le lingue del mondo, tutte le culture, è una cosa anche se mi permettete anche un po' emozionante avere così tanti personaggi che si scambiano, si incontrano, perché anche il festival stesso è un'occasione di incontro, abbiamo 100 ospiti e quindi sarà un'opportunità da non mancare anche per il pubblico di poter dialogare con loro. Ci sono argomenti più trattati nei lavori che presentate, Alberto? Sì, tant'è vero che quest'anno ho deciso di con i miei collaboratori di fare un focus sull'immigrazione che si compone di 19 film, proprio perché i film che ci stavano arrivando nei mesi precedenti, quando stavamo ancora in ufficio, no, a consultarci sul da fare, ci hanno mostrato che non solo le pagine dei giornali, i telegiornali ci raccontavano di questo enorme fenomeno che sta cambiando l'Europa, ma anche i film che noi invece professionalmente stavamo esaminando ci parlavano di queste storie, ma lo facevano con un linguaggio diverso. Là dove la notizia spesso porta statistiche, dati numerici, ecco, che sono un pochino aridi, invece i film erano palpitanti di emozioni perché sono i racconti che gli stessi migranti o i rifugiati politici hanno deciso di fare, l'hanno fatto anche con la complicità dei cineasti, per cui i film che compongono questa sezione Alline la città si chiama, sono film realizzati da grandi autori europei con la complicità e con il supporto degli stessi migranti, quindi coloro che hanno la possibilità di spiegarci che cosa hanno vissuto e soprattutto quali motivazioni li hanno spinti a rischiare la vita pur di arrivare in Europa. Alberto, ci dai il sito internet per la programmazione? Sì, potete trovare tutte le informazioni sui film, compreso i trailer, a www.festivaldeipopoli.org. Allora, un abbraccio, un in bocca al lupo e a risentirci presto. Venite al Festival dei Popoli. Ciao a tutti. Ciao Alberto, alla prossima. Allora, Alberto Lastrucci, direttore della 56esima edizione del Festival dei Popoli a Firenze da domani, venerdì 27 novembre, fino al 4 dicembre. In collegamento con Paolo Cantarutti, coordinatore della prima edizione del Suns Europe in Friuli, in varie località del Friuli, da ieri 26 novembre fino al 12 dicembre. Paolo, benvenuto a Visionari su Radio Onda Rossa. Grazie, grazie, un saluto a tutti gli ascoltatori di Radio Onda Rossa. Allora, questo festival aveva dei precedenti, però questa è una vera e propria prima edizione. Raccontaci un po' questa genesi, Paolo. Beh, il festival è nato nel 2009 come festival essenzialmente musicale, è un festival europeo, ma che a differenza dell'Eurofestival, dove si canta solo in inglese, invece sono ammesse tutte le lingue dell'Europa, comprese quelle minoritarie, eccetto l'inglese. E poi dopo questa inizio nel 2009 solo musicale, quest'anno anche con l'aiuto di istituzioni pubbliche della regione Friuli Venezia Giulia, abbiamo allargato il festival anche alla sezione cinematografica e a una sezione letteraria, per cui cinema, letteratura e musica dall'Europa nelle lingue più piccole, più particolari, la diversità dell'Europa in vetrina, diciamo. Sì, sì. Ecco, a proposito di cinema, la curiosità è rispetto a le opere, quante sono le opere che presenterete e di quante lingue minoritarie? Sono circa una ventina di produzioni, fra lungometraggi, cortometraggi, film di animazione per bambini, persino degli spot, in una decina di lingue, mentre per esempio per la sezione musicale ci sono 12 lingue, ma in rappresentanza di 27 nazioni, e hanno partecipato comunque, perché i gruppi selezionati hanno risposto a un call di un concorso, hanno partecipato in 60, per cui ci dà l'idea di una vitalità culturale, linguistica, sociale, anche di queste comunità di cui non si parla molto spesso, ma che fanno parte a tutti gli effetti dell'Europa. Senti, ecco, la curiosità rispetto a queste comunità, ce ne sono di che hanno un sistema avanzato per la tutela delle proprie radici culturali e linguistiche? E le tutele variano molto da paese a paese, dal percorso che i singoli paesi poi hanno fatto a livello di diritti linguistici, anche a livello legislativo, quindi è difficile fare una comparazione. Quello che è interessante è, guardando, ascoltando queste produzioni, che non si tratta di materiale, come dire, folclorico, sì, sì. Che fa riferimento solo alla tradizione. Molte volte ci troviamo davanti ad opere anche innovative dal punto di vista del linguaggio artistico, che usano le lingue antiche per cercare di produrre qualcosa di per il futuro. Ecco, il rapporto con le scuole, ad esempio, come funziona per le lingue non tutelate, tra virgolette? Ti faccio l'esempio del Friuli, sì. Dove della nostra regione, dove le istituzioni hanno fatto una legge per la tutela delle lingue proprie del Friuli, che non sono solo il friulano, ci sono anche le minoranze, la minoranza slovena e una minoranza esigua, ma c'è, e tedesca in Friuli. Sì. Queste lingue a tutt'oggi non sono insegnate in maniera normale, diciamo curricolare, nella scuola. Sono ancora un po' lasciate alle iniziative dei vari istituti scolastici, alla buona volontà di insegnanti, anche se la legge a livello italiano per la tutela delle lingue minoritarie presenti nello Stato italiano è del 99, ma fino adesso non è entrata a regime a pieno titolo, tanto per dire. Sì. Poi ci sono altre regioni molto più avanti di noi, per esempio il Trentino Alto Adige ha già una metodologia di insegnamento più avanzata. Da altre parti in Europa c'è di peggio e c'è di meglio. Ci sono dei posti come la Frisia, che è una regione dell'Olanda dove le lingue locali vengono insegnate già dalle prime classi, per favorire questo, e questa è una questione è uscita anche a livello scientifico, per favorire il multilinguismo, sì. Il fatto di partire con la lingua locale, poi aggiungere le altre, ma in età molto, molto giovane, addirittura prima dei 3 anni, favorisce dal punto di vista scientifico proprio l'apprendimento poi delle lingue in maniera più semplice quando si è adulti. Ecco, per fornire, se ce l'hai a disposizione, qualche dato a chi ci ascolta, ecco, quanta popolazione è interessata da questo fenomeno delle lingue minoritarie? Sta parlando dell'Europa, se abbiamo già dei dati in proposito. È in pratica, in ogni Stato europeo ci sono delle minoranze, sì, tutti gli Stati europei hanno delle minoranze più o meno grosse, sì. In Italia quelle più grosse ad esempio sono la nostra, in Friuli con 500.000 parlanti circa, e la Sardegna, anche dalle altre parti in Francia ci sono i bretoni, i corsi, gli occitani, così, ci sono milioni di parlanti, credo, in Europa, che non parlano solo la lingua ufficiale dello Stato. Paolo, ci sono anche, sono previsti anche incontri, e in che termini avverranno tra tante lingue diverse? Ci sono degli incontri in tutte e tre le sezioni, sia quella cinematografica con gli autori, i registi, che in quella letteraria, naturalmente, dove ci saranno dei dialoghi multilingue. A questo punto troveremo di volta in volta una lingua di comunicazione, lo vedremo sul momento, e anche per quanto riguarda la musica ci saranno delle session radiofoniche a Radio Onde Furlane, che poi una radio di Friuli, che trasmette la maggior parte in lingua friulana, ma non solo, anche in altre lingue. Ci saranno delle session dove i musicisti che sono qua a Udine in questi giorni per il festival verranno a fare dei pezzi acustici, ma soprattutto a parlare delle loro rispettive realtà. Bene, a questo punto Paolo, ci dai tutti i riferimenti internet per saperne di più sul programma? Sì, trovate tutto su www.sunscontest.com. Benissimo. Allora, un abbraccio, un buon proseguimento e a presto. Grazie mille e viva Radio Verosa. Ciao Paolo. Ciao. Paolo Cantarutti, coordinatore della prima edizione del SUNS Europe in Friuli da ieri 25 novembre fino al 12 dicembre, un festival legato alla musica, alla letteratura e al cinema delle lingue minoritarie europee. Con Luca Mosso, direttore di Filmmaker, sulla 35esima edizione del Filmmaker Festival a Milano da domani 27 novembre fino al 6 dicembre. Luca, ben ritrovato a Visionari su Radio Onda Rossa. Buongiorno a tutti. Allora, 35 edizioni non sono poche. Quali sono le caratteristiche di questo festival, Luca? Ma è un festival che cambia, un festival che si muove, come cinema, senza inseguirlo però, a volte cercando di anticipare le tendenze oppure di sostenerle, intervenire nel cinema non soltanto mostrarlo. E questo è un po' da sempre lo scopo, il fine di Filmmaker, per cui sempre insieme ai film che noi reputiamo i più belli, i più interessanti della stagione, abbiamo anche dei progetti di sviluppo, di produzione, di sostegno a cinema che vorremmo vedere. Quest'anno ci sono l'1 e il 2 dicembre, due giornate industry, diciamo così, per gli addetti ai lavori, soprattutto per film che il primo giorno sono stati sviluppati in un workshop che abbiamo curato insieme al Milano Film Network, e martedì per film invece che sono all'ultimo stadio, sono alla fine, sono nel mezzo della post-produzione, stanno cingendo a fare la post-produzione e hanno bisogno di un sostegno, di tutoring o di soldi, che pochi, però insomma, che abbiamo trovato grazie a Fondazione Carico, E che quindi ci aspettiamo, siamo molto curiosi e impazienti di vedere realizzati. Ecco, un po' questa attitudine attivista rispetto al cinema è un po' il nostro, la nostra caratteristica. Il cinema, dimmi. Sì, sì, no, ti volevo chiedere la suddivisione, ad esempio, del festival per questa edizione. Allora, questa edizione abbiamo un'apertura che domani è all'Arcobaleno, che è Le mille e una notte di Miguel Gomez, Arabian Nights, titolo internazionale, che è stato l'evento di Cannes di quest'anno. È un film, è una trilogia, in realtà noi proiettiamo il primo volume venerdì, il secondo sabato e il terzo domenica, ed è un film che spariglia un po' le carte, cioè un film di grande presa sulla realtà e dall'altra di una costruzione immaginifica. Ovviamente il tributo alle mille e una notte è già nel titolo, anche se non è fedele, non è letterale, e comunque l'idea di guardare alla realtà con le strutture dell'invenzione, della narrazione e dell'invenzione. Credo che questo sia queste due caratteristiche riassumano bene il nostro progetto. Poi abbiamo un concorso internazionale che, come sempre, fa un po' il punto del cinema del presente più interessante e nelle sue diverse articolazioni. Cioè, dentro abbiamo In Jackson Heights di Frederick Wiseman. Wiseman torna nel Queens, a New York, a filmare una delle comunità più articolate, multietniche degli Stati Uniti, e lo fa alla sua maniera. È un film che piacerà moltissimo agli appassionati del Wiseman americano, mentre il Wiseman europeo a volte ha delle deviazioni, secondo me, molto interessanti. Questo è proprio un Wiseman doc, quello che analizza i corpi intermedi, in questo caso della società americana, le comunità, e ne scova l'utilità civile, forse prima ancora che politica. Poi dentro ci sono anche, ovviamente, in questo concorso abbiamo un esordiente come Leandro Picarella con Trio Cala, oppure una coppia di autori italiani, Martina Parente e Massimo D'Anolfi, con L'infinita fabbrica del Duomo, che si confermano autori di punta del documentario internazionale. Oggi loro sono, questo è il primo pezzo, la prima sezione di un progetto molto ambizioso in quattro parti. Si sono accorti che il film ha una tenuta e un'autonomia e si sono cimentati con direi la materia della forma, cioè il Duomo, da che cosa è fatto, da cosa è costituito, che lavoro si deve fare quotidianamente intorno alle sue pietre per mantenerlo così com'è. E questo è un film sul lavoro, un film sulla forma, appunto, un film sulla materia delle cose, molto strutturale da questo punto di vista. Senti Luca, ci dai riferimenti per la programmazione su internet? Allora, su internet trovate tutto nel sito che è www.filmmakerfest.com, dentro ci sono, c'è il programma giorno per giorno, ci sono tutte le sezioni, ci sono i riferimenti per il workshop che avremo con Daniele Incalcaterra, protagonista della retrospettiva di quest'anno, autore di Ele Impenetrabile. Però noi apriamo con Terra d'Avellaneda, che è un film del 93, sabato, che è il film che l'ha rivelato dal punto di vista internazionale, ed è un lavoro molto interessante nella Argentina dell'indulto, quando si cerca, in parte della società e della politica argentina cercavano di dimenticare le tragedie e gli orrori della dittatura. Ed è un film che si interroga sulla necessità della memoria, ma anche della durezza nell'affrontare il passato. È aperto l'interrogativo se meglio voltare pagina oppure fare conti col passato. Luca, io ti ringrazio, un abbraccio, un in bocca al lupo. Grazie a voi. Ciao. Arrivederci. Ciao ciao. Luca Mosso, per quanto riguarda la 35esima edizione del Filmmaker Festival a Milano dal 27 novembre al 6 dicembre. Di nuovo con noi Dario Barone di Camera Distribuzioni Internazionali per parlarci del documentario This Changes Everything, in uscita in sala il prossimo mercoledì 2 dicembre. Dario, ben ritrovato. Ciao, ciao e buongiorno agli ascoltatori di Radio Proletaria. Onda rossa. Scusa, bellissimo questo. Vabbè, questo è un lapsus fantastico che, come dire, rivela tante cose, no? Vabbè, abbiamo iniziato in maniera fantastica. Comunque. Allora Dario, cominciamo da questo titolo. Ho avuto modo, perché una proiezione ufficiale ci sarà oggi per la stampa, ho avuto modo di vedere un trailer, mi sembra molto interessante. Di cosa si parla? Dunque, allora, il film innanzitutto è stato ispirato all'ultimo libro di Naomi Klein, che è uscito in tutto il mondo con lo stesso titolo, This Changes Everything. In Italia è uscito per Rizzoli col titolo Una rivoluzione ci salverà, ed è stato girato appunto da Abby Lewis, che è un regista nonché compagno di Naomi Klein, contemporaneamente alla scrittura del libro. Sì. Sono durate molti anni in tutto il mondo, e il film sostanzialmente mette in connessione la crisi ambientale con la crisi economica, e la tesi di fondo che porta avanti il regista e Naomi Klein è sostanzialmente che attraverso la soluzione, cioè affrontando l'emergenza ambientale, noi abbiamo la possibilità anche di creare un mondo migliore, più giusto, con meno differenze. Mm. La tesi è il capitalismo contro l'ambiente. È un film ovviamente molto di denuncia, molto duro, che però anche molto coinvolgente, ci dà una speranza. La speranza arriva dalle storie che loro raccontano, che sono storie di movimenti che si sono organizzati per appunto combattere lo sfruttamento dei territori, e quindi in qualche modo attraverso questo anche di creare delle condizioni di vita migliori. Dario, ci sono ad esempio proprio a questo proposito delle buone pratiche illustrate dal documentario? Assolutamente sì. Le buone pratiche, ci sono alcune storie che ahimè non portano ancora delle buone pratiche, che sono storie di persone che stanno lottando ma contro cose molto grosse, quindi fanno molta fatica ad affermare le loro ragioni. Però ci sono anche delle storie come quelle degli indiani Dakota, che in un territorio devastato dallo sfruttamento intensivo del loro territorio per estrarre petrolio, si sono organizzati per costruire delle centrali solari, quindi dando dimostrazione che attraverso quelle si poteva in qualche modo continuare in un percorso di sviluppo senza violentare la terra. Mm. Si parla anche della Cina, paese da molti appunto indicato come uno dei più inquinanti del pianeta, e anche lì nel disastro totale di quell'enorme paese, però ci sono delle storie positive, perché appunto anche lì c'è una riconversione verso l'energia solare, quindi che in qualche modo fa sperare. Ma la speranza, direi che nel film viene fuori più che altro dal fatto che questi movimenti si stanno in qualche modo collegando, quindi stanno creando una sorta di enorme movimento globale che si spera possa far sentire la propria voce in maniera significativa. Ecco, proprio a questo proposito, Dario, volevo chiederti che tipo di distribuzione internazionale avrà il documentario, e quali sono i paesi che già lo hanno potuto vedere e quali sono i paesi che lo vedranno prossimamente? Allora, il film è stato uscito adesso proprio perché voleva uscire in contemporanea con l'inizio della conferenza di Parigi, che inizia il 30, e quindi voleva essere proprio un contributo al dibattito che si svilupperà, speriamo, tra pochi giorni, alla conferenza di Parigi partecipano 197 nazioni, quindi dovrebbe essere un momento molto importante. In preparazione di questo il film è uscito con un po' di anticipo, è stato distribuito attraverso dei circuiti che definirei un po', come dire, militanti, cioè ci sono state in tutto il mondo migliaia di proiezioni cosiddette di base, quindi proiezioni gratuite fatte proprio per sensibilizzare. Poi vabbè, il film ha avuto anche un po' di distribuzione cinematografica, credo che anche negli Stati Uniti uscirà in sala, uscirà in sala in Francia, non mi ricordo, perdonatemi, in quale altro paese europeo sarà distribuito, però viene distribuito in Italia, come tu hai già anticipato. Tra l'altro do comunicazione che mi sembra importante, esce solamente il 2 dicembre, perché ovviamente sapete che la distribuzione cinema per un documentario è una cosa molto complessa, con possibilità di repliche, però teniamo buona la data del 2 dicembre, e a Roma uscirà addirittura al momento 4 sale, cioè il Cinema Moderno, The Space, il Cinema Farnese e la Multisala Lux. Quindi questo mi sembra un risultato straordinario, devo dire anche quasi un po' inaspettato. Spero che, appunto, che attraverso questo tipo di distribuzione siano in molti a poterlo vedere. Senti, poi poi da parte mia ovviamente ci sarà il massimo impegno per cercare di venderlo, insomma, qualche broadcast, qualche televisione italiana, speriamo, insomma, di riuscire quindi anche a vederlo, diciamo, non fra molto in televisione. Ho vista questa data unica, volevo chiederti se ci sono proiezioni evento con magari il regista o comunque le persone che hanno curato questo progetto. Dunque, proiezioni evento in Italia al momento non ce ne sono. Okay. Cioè, al di là della presentazione che stiamo per fare oggi pomeriggio alla Camera dei Deputati, con la partecipazione anche della Presidente Boldrini, che mi sembra un segnale veramente ottimo, interessante, cioè se le istituzioni si iniziano a occupare attivamente, insomma, dei problemi, insomma, è un endorsement che prendiamo come un segnale positivo. Stasera so che ci sarà non è però la proiezione del film, ci sono alcuni estratti con la presenza poi del regista Bill Lewis al, se non sbaglio, al Centro Sociale La Strada. È possibile? Potrebbe essere, non ci è arrivata comunicazione, ma potrebbe essere, certo. Beh, allora ve la do io, e appunto ci sono degli estratti, perché il film non si può proiettare per intero fino a quando non ci sarà l'uscita in sala, però ci sono alcuni brani del film e Abby Lewis commenterà, insomma, insieme al pubblico questi brani. E poi so che la stessa operazione sarà replicata a Bologna-Venezia, però sempre come estratti. Dopo l'uscita in sala, attraverso anche tutta la complessa organizzazione che c'è dietro di Lewis e Naomi Klein, ci sarà forse la possibilità di fare altre proiezioni cosiddette di base. Senti, a questo punto ci dai i vostri riferimenti internet per saperne di più, Dario? Dunque, i nostri riferimenti internet, dunque, esiste una pagina Facebook, sì, dove pubblichiamo, aggiorniamo, insomma, costantemente. La pagina Facebook si chiama come il film, This Change Everything, e lì aggiorneremo tutto costantemente per far sapere quando escono e dove escono i film. Benissimo, allora speriamo a presto per le novità. Dario, un abbraccio e grazie scusate per il lapsus iniziale, che veramente lo trovo fantastico. Un abbraccio, Dario, ciao. Grazie Federico, ciao. Dario Barone di Camera Distribuzioni Internazionali sul documentario This Changes Everything, in uscita in sala il prossimo mercoledì 2 dicembre. Con questo chiudiamo la puntata settimanale di Visionari, il cinema su Radio Onda Rossa, tutti i giovedì dalle 14 alle 15. Potete ascoltarci in diretta sugli 87.9 modulazione di frequenza, ma anche in streaming, perché sul sito internet della radio, che è ondarossa.info, sull'home page c'è Ascolta la diretta. Le informazioni sulla scaletta di quest'oggi e sulla trasmissione le trovate sul sito della radio alla voce Trasmissioni Visionari, sulla pagina Facebook di Visionari. Per comunicare con noi, indirizzo di posta elettronica è visionari@ondarossa.info.